9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 30 di aprile, San Pio V oggi, quindi a Pio e a tutti coloro che si chiamano così gli auguri di inizio settimana. Noi riprendiamo dove esattamente avevamo smesso venerdì, nella giornata dedicata, l'intera programmazione della giornata da Radio 24 all'iniziativa Disperati Mai @ radio24.it, che da 12 giorni a questa parte ha deciso di aprire un orecchio e di prestare i microfoni alle voci di dolore, di preoccupazione, di tensione crescente, a questa linea di faglia che sta attraversando il pilastro che per decenni aveva retto in piedi la piccola impresa italiana, artigiani, commercianti, partite IVA, ma anche imprese più grandi che si trovano in maniera crescente a essere insidiate e travolte da tre fenomeni concorrenti, che sono i tre fenomeni più gravi per la tenuta di un sistema di impresa piccolo, molecolare, come quello che ha per decenni caratterizzato il nostro sistema. Certo, ne ha frazionato i patrimoni, ne ha spesso investito, impedito la crescita delle imprese perché troppo piccole e frazionate, ma contemporaneamente ne ha caratterizzato la grande forza e il grande radicamento. E questi tre fenomeni sono i tre fenomeni che si accrescono e diventano più gravi al quarto anno di crisi, perché è l'esosità crescente dello stato tossicodipendente da entrate che da metà dell'anno scorso, in maniera sempre più accentuata, ha accresciuto la sua pretesa fiscale e contributiva su il lavoro e sull'impresa, e continuerà così per anni senza essere capace, ma qui un inciso, tra poco ci occuperemo della novità del giorno, la spending review, di cambiare marcia, e anzi dicendo che la colpa è nostra, è di chi lavora, dell'impresa, non loro, non dello Stato, non delle istituzioni, non di come non funzionano e come sono organizzati. E questo è il primo fenomeno. Poi c'è il secondo fenomeno, che è la torsione bancaria, un sistema bancario verso il quale, vedete, è facile fare polemica, non sanno fare il loro mestiere di qua di là. La realtà è che il sistema bancario al quarto anno di crisi arriva con un ROE, cioè una redditività zero, con costi fissi altissimi, con un problema serissimo, e un anno che il mercato a breve della liquidità commerciale per le banche europee si è esaurito, perché d'oltreoceano nessuno presta più niente, con gli stati che dicono dovete comprarvi i titoli del debito pubblico alle aste, ed è finita quella finestra di fiducia che dall'inizio dell'anno, con le due aste straordinarie della BCE e oltre 1.000 miliardi di euro dati al sistema bancario europeo, aveva fatto rifiatare per un paio di mesi gli spread che erano scesi, perché con quel trilione di euro le banche hanno coperto le proprie obbligazioni in scadenza, sono tornate a comprare titoli a debito pubblico, ecco perché sono scesi gli spread, non perché avevamo fatto i compiti a casa nostra, ma di certo denaro per le imprese e per i clienti non ce n'è. Il terzo fenomeno è ovviamente quello di uno Stato che non paga i suoi debiti, con una faccia tosta degna del peggior tagliagole da strada, visto che il tagliagole non ci fa la morale, ma lo Stato ce la fa, dopo che naturalmente i suoi debiti non li onora. Uno Stato che ha dato, per così dire, con quei 100 miliardi di liquidità che nega e con crediti IVA che non rimborsa oramai nella media da 2-3 anni, ha dato naturalmente il giro di vita, ecco il terzo fenomeno, al deterioramento della capacità di essere buoni pagatori per tutti, anche nel settore privato. Questi tre fenomeni sono alla radice dei suicidi che dall'inizio di quest'anno ha iniziato a fiorire nel mondo dell'impresa italiana, suicidi rispetto ai quali, ci tengo a dirvelo, venerdì il nostro bilancio finale è stato che nella nostra giornata straordinaria di programmazione non un solo politico nazionale si è fatto vivo o è venuto a rispondere alle nostre domande o ha telefonato. Una sola regione, la regione Veneto, l'avete sentito le trasmissioni nostre di venerdì, si è fatta viva spiegandoci come, perché aveva problemi nell'implementare la proposta, l'unica tra le diverse regioni italiane fino a questo momento, di far evolvere dal sistema Confidi un fondo dedicato alle situazioni disperate per impedire di arrivare alla chiusura. Da questo ho ricevuto la lettera di un parlamentare, francamente sì, lo citerò, però sai, i parlamentari da soli non possono fare nulla, e quindi c'è un po' lo scrupolo, oltre che nel ringraziarlo, perché sembra che poi uno si deve appuntare le medagliette. Qui il problema è la politica, che ha le responsabilità istituzionali e volge la faccia dall'altra parte. È una cosa indegna e intollerabile. Io non voglio usare aggettivi di troppo. Dicono, mi hanno detto che esagero, sbraito, urlo, grido. Non si tratta di alzare la voce, si tratta di rimanere perplessi con la testa tra le mani di fronte a un dibattito che avviene sempre su altro. Prendete quella, ve lo annuncio, e questa volta vado oltre il mio dovere di informazione, la spending review che uscirà dal Consiglio dei Ministri di oggi. Poiché da mesi il governo non ha battuto la strada di dire la verità agli italiani, che era necessario un cambio di linea assoluta sulla politica economica di 20 anni, quella di credere che il problema del debito pubblico si affronti con avanzi primari, e cioè affondando le tasche con ulteriori aumenti delle tasse, bensì con la cessione di asset pubblici, a cominciare dai 500 miliardi di mattoni pubblici e da molte municipalizzate locali che sono 7.000 in perdita e così via, non aver detto questo e non aver aggiunto che, come per molti altri paesi che hanno dovuto affrontare cose simili, è avvenuto in Svezia, è avvenuto in Germania, è avvenuto in Polonia, ve l'ho detto mille volte e abbiamo spiegato ciascuno di questi casi, bisogna correggere una spesa pubblica che è del 51% di PIL ed è possibilissimo farla diminuire di 6 punti in 3 anni per aprire contestualmente immediato spazio ad sgravi fiscali sulle spalle dell'Italia legale. Non aver detto queste due cose trascina il governo oggi a una spending review balbettante. Trovate già sui giornali di oggi le vergognose reazioni preventive dei signori prefetti, dei signori magistrati, dei signori, capite, i funzionari e dirigenti amministrativi del settore pubblico che alzano il ditino e dicono non si può tagliare un solo euro. Non si conosce paese al mondo in cui veramente la politica oramai è in ginocchio di fronte alla sete del tossicodipendente della macchina pubblica. È così. Non aver detto quelle due cose porterà a un tossicchiante esempio in cui al massimo si riuscirà a portare a casa qualche centinaio di milioni. Io che considero per esempio il ministro Cancellieri, il ministro dell'Interno, uno dei migliori ministri di questa coalizione, nel leggere il criterio con il quale sta tentando di convincere i signori prefetti, i signori questori, i signori capi di gabinetto ad accorpare almeno le subprefetture, a scendere di qualche quindicina di unità rispetto alle tante prefetture fiorite nel nostro territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Ieri da una parte applaudivo perché si trova a fare questo senza avere la guida di un premier capace di dire la verità su questo, e poiché il premier è anche il ministro dell'economia, si è trovato senza economia che su questo ha fatto una scelta. Sapete che il vice ministro dell'economia è lo stesso di prima, Vittorio Grilli. Piero Giarda fa questa spending review da solo come ministro del Parlamento, essendo in Parlamento da mane a sera. Il povero ministro Cancellieri da una parte è l'esempio di una persona per bene che tenta di fare da solo ciò che un governo per indirizzo politico non ha saputo dargli, dall'altra questa è la migliore garanzia di come finirà nel nulla. Questi programmi hanno bisogno di scelte politiche chiare che spieghino agli italiani, non come sta già succedendo a ogni edizione dei giornali radio, dei telegiornali. Vogliono tagliare servizi pubblici perché la spesa per welfare è meno del 25% del PIL su una spesa pubblica del 51%, perché tagliare le forniture sanitarie, che sono aumentate del 50% in 5 anni, non c'entra niente con tagliare i servizi dati al cittadino, eccetera eccetera eccetera, perché sentire i magistrati che dicono che gli vogliono tagliare le risorse quando abbiamo speso più di 3 miliardi di euro in 15 anni per l'informatizzazione della giustizia e ottenere che ci sono 500 server che non dialogano tra loro perché ciascuno vuole rimanere unità di costo che spende e mette insieme sistemi che non dialogano tra loro, ecco, tutta questa è la devastante situazione che i signori della spesa pubblica non sono capaci di aggredire, perché chiedono le opinioni ai dirigenti amministrative. I veri capi sono loro, la politica passa, ma se chiedete al ragioniere generale o se chiedete ai direttori generali è possibile tagliare, ti dirà sempre che i tagli sono già arrivati, anche se non è vero, perché la spesa pubblica è sempre cresciuta. Vi avevano raccontato che quella sanitaria oramai è stoppata ed è ferma. Per fortuna oggi un giornale, il Corriere della Sera, vi fa toccare con mano che quando vi abbiamo fatto un mese e mezzo fa la trasmissione col professor Pamolli dicendomi che i costi continuano a crescere, purtroppo questa è la situazione. Allora, poiché ritengo anche oggi verrà una delusione all'Italia che chiede spazio per immediati sgravi fiscali, è vero che non c'è alternativa che premere dal basso. Io ero venerdì alla manifestazione a Milano con il sindaco Pisapia e con l'ex ministro degli interni Maroni e col presidente designato di Confindustria Squinzi, e devo dire la verità, ho soffiato sul fuoco nel dire che tutti i sindaci dei comuni più piccoli, quelli grandi hanno più problemi, possono secondo il nostro ordinamento disintermediare Equitalia per la riscossione dei tributi, e poiché in quei piccoli comuni essi conoscono la cittadinanza e lo stato patrimoniale e la tensione di conto economico dei contribuenti, famiglie e piccole imprese, i comuni possono esercitare quella capacità di filtro e di analisi discrezionale che impedisce altrimenti di fare chiudere tutti nel nostro paese. Un paese in cui il pubblico assetato di entrato e tossicodipendente spinge tutti a chiudere ad andare a casa è un paese che si suicida. Allora, cominciamo con disintermediare i comuni, cominciamo con l'appoggiare, e adesso inizio a leggere un po' di lettere, associazioni che dal basso decidono di scendere in piazza, di fare come da sempre fanno i sindacati per i lavoratori dipendenti, di farlo in maniera legalitaria, senza interrompere il ciclo di produzione. Però il 1° maggio la CNA Reggio Emilia va in piazza, fa bene secondo me per attirare l'attenzione. Il 15 maggio, ve l'ho già detto, lancia i costruttori disperati per l'ennesimo anno in cui lo Stato cattivo pagatore lascia a segno meno a doppia cifra le costruzioni, decidono di portare lo Stato e le amministrazioni pubbliche che non pagano i propri debiti alla sbarra e quindi di depositare gli esposti alle procure. Benissimo, queste sono le cose di cui c'è bisogno, di costruire dal basso una fiducia che purtroppo nel tessuto dell'economia regge poco. Sono molto scettico invece sul grande piano Roma-Berlino che si legge oggi sui giornali e sugli esiti e sui tempi degli esiti di questo piano di oltre 200 miliardi di piano per la crescita che la Merkel, oramai sempre più abbandonata in Europa, pensa di far approvare per infrastrutture finanziate con bilanci europei, eccetera eccetera. Vedremo. La verità è che i compiti bisogna farli a Roma, e a Roma c'è bisogno di meno spesa e meno tasse, e invece questo non ci sarà. Questa è la mia netta sensazione, e noi continueremo nel rispetto di tutti, senza alzare la voce, a dare conto delle vostre lettere. Allora inizio con una lettera un po' strana, per così dire, e che mi ha molto colpito, è di un prete. E dice: vi ringrazio, sono un prete che ascolta con passione la vostra radio, segue con attenzione la vostra campagna Disperati Mai. Ho ascoltato alcune testimonianze e ho anche appreso con un certo piacere che per motivi di discrezione e di urgenza alcune voi non le pubblicate e non le leggete, ma che le gestite opportunamente in privato nella vostra redazione. Io sono parroco di 5 parrocchie, ci scrive il sacerdote, che interessano una buona fetta del tessuto artigianale e commerciale della città di Foligno. Mi domandavo se qualche imprenditore di questi che è arrivato a minacciare la vendita di propri organi, questa è una lettera di cui proprio io ho fatto riferimento la settimana scorsa, o lo spreco della propria vita fosse della mia parrocchia. Chi lavora con la Caritas, prosegue il sacerdote, sa bene quanto sia difficile per dignità e pudore manifestare le proprie difficoltà, insuccessi e fallimenti, e soprattutto chiedere aiuto. Senza perdere la vostra assoluta discrezione, la fiducia accordatavi e la serietà che vi contraddistingue, dunque, perché non pensate di mettere anche qualche punce nell'orecchio? A me farebbe molto piacere. In altre parole, per quello che può servire... dice Giovanni Zampa, sacerdote a Foligno, io non posso parlare certo a nome delle istituzioni, posso parlare ecclesiastica solo a nome di me stesso, ma fatevi vivi anche con noi eventualmente, cioè con sacerdoti e parroci, se qualcuna delle lettere che vi arrivano davvero fa pensare a cose di questo genere. Allora, Don Giovanni Zampa, che ci scrive dando conto di come esercita la sua missione, a me ha colpito, perché siamo reduci da quanto tempo di polemiche sul fatto che la Chiesa non pagava l'IMU. Ve la ricordate? Sì, ne abbiamo parlato più volte, insomma. E alla fine sono i sacerdoti che si fanno vivi dicendo siamo qua, e insieme a tanti altri, le trovate le testimonianze sul sito di Radio 24, che dal terzo settore come da associazioni d'impresa si sono dichiarati disponibili a dare una mano. Però i sacerdoti sì, le istituzioni no. E allora, francamente, cominciamo gli ospiti, la carrellata degli ospiti di oggi, proprio da un altro sacerdote, Don Luca Facco, che è il direttore della Caritas diocesana di Padova, in questo caso. Ringrazio Don Luca Facco e gli chiedo come avete visto, nella vostra sensibilità di uomini di chiesa, peggiorare la situazione a Padova, che pure nel Triveneto non è l'epicentro della crisi italiana, ma naturalmente c'è anche lì. E che cosa nella vostra sensibilità e con le vostre antenne riuscite a fare rispetto a una situazione che peggiora? Grazie intanto e buongiorno per essere con noi a Don Luca. Buongiorno. Sì, grazie allo strumento dei centri di ascolto diffusi in tutto il territorio abbiamo proprio l'antenna costante rispetto alle problematiche, alle povertà che quotidianamente incontriamo. Ecco perché è stato costituito già nel 2008 e adesso è stato ricostituito il Fondo Straordinario di Solidarietà, insieme con la Camera di Commercio, la Provincia di Padova, le due fondazioni bancarie e la Diocesi. E in questa evoluzione stiamo cercando concretamente di dare una risposta in particolare alle persone disoccupate che non hanno nessun ammortizzatore sociale o ai giovani, in particolare offrendo e finanziando opportunità lavorative. Nel primo fondo si erogavano soldi a fondo perduto, invece oggi si cerca di finanziare borse lavoro, i voucher, borse lavoro alle aziende, i voucher alle parrocchie, alle associazioni, lavori di pubblica utilità per i comuni, le assunzioni presso le cooperative e i percorsi formativi. È un tentativo di dare una risposta grazie al lavoro, attraverso il lavoro, per dare una boccata di ossigeno alle persone che sono disperate, ma anche per dare una boccata di ossigeno anche a tante associazioni, parrocchie, aziende, che anche loro beneficiano di questi lavori da parte delle persone. Come descriverebbe la situazione in questi ultimi mesi? Secondo lei è un progresso, per così dire, lento e costante, o avete avvertito un'accelerazione? Secondo lei dovuta a che cosa? Sì, la percezione è proprio che abbiamo un aumento costante negli ultimi mesi. Abbiamo visto anche in relazione con il Comune di Padova un aumento delle richieste di aiuto proprio dell'8%, per cui è costante, è progressivo, è diffuso, che sta colpendo tutte le famiglie. Ecco che non c'è nessuna famiglia che non abbia proprio questo problema in casa, e allora ci sentiamo tutti chiamati a dare una risposta. Credo che oggi il tentativo che stiamo costruendo anche attraverso questo fondo è proprio quello di fare un lavoro di rete, un lavoro di squadra, dove mettiamo, ognuno cerca di mettere la propria capacità, la propria competenza, le proprie risorse, metterle insieme, ed è interessante che solo mettendo insieme le difficoltà, perché siamo tutti singolarmente in grandissima difficoltà, ma mettendo insieme le difficoltà e mettendo insieme anche la risorsa di ciascuno, credo che sia l'unico modo per tentare di stare dentro questa situazione di crisi, di non fuggire, di non scappare e di non lasciarci implodere. Per cui dal nostro punto di vista, proprio qui a Padova, stiamo cercando di restare collegati tutti quanti insieme. Io ringrazio Don Luca Facco e ringrazio la rete di solidarietà della Caritas in generale, in questo caso lui è direttore della Caritas diocesana di Padova, quindi grazie Don Luca. L'ecatombe di imprenditori non si è fermata neanche nei giorni di vacanza. Purtroppo due mattine fa si è sparato un colpo di pistola alla testa, solo e lontano da tutti, un imprenditore delle costruzioni di Nuoro in Sardegna, che era stato costretto a chiudere l'attività e a licenziare i propri figli, e si è un impresario edile, 55 anni, di Mamoiada, e purtroppo si è sparato. Allora, la lettera di Claudio Carlot, 49 anni, Vivo vicino a Pordenone, ci scrive nello una volta opulento e laborioso nord-est. Dopo diversi anni di esperienza commerciale come dipendente, nel 99 decido di aprire una mia azienda commerciale nel campo dei prodotti consumabili per la stampa. Ero spinto dalla mia ambizione di creare qualcosa di mio, dall'ideale personale di lavorare nel campo della rigenerazione, del recupero delle cartucce esauste per non gettarle nei rifiuti e quindi nel rispetto dell'ambiente. Lavoravo principalmente a carattere locale. Per un paio d'anni ho lavorato da solo, crescendo con ritmi sopportabili però adeguati alla mia piccola realtà. Nel 2001 dei miei clienti, proprietari di una bella e importante catena di negozi informatici, mi propongono di realizzare una società e di ampliare l'attività, espandendola a livello nazionale. Valuto attentamente, accetto, con l'accordo che io, non avendo capitali personali consistenti, avrei seguito tutto l'aspetto operativo e logistico, mentre loro avrebbero finanziato l'impresa con una SRL, con un terzo delle quote a testa. Nel giro di 4 anni passiamo da un fatturato di poco decine di migliaia di euro a un fatturato di 1.200.000, con ottime proposte di crescita, ma purtroppo con gran parte dell'investimento supportato da prestiti e mutui, contratti con le banche. Nel 2006 un paio di banche con le quali lavoriamo ci avvisano che i soci stanno fallendo con le precedenti attività e che la cosa, visto che io a quel punto possedevo possedevano il 66% dell'azienda, avrebbe potuto avere ripercussioni disastrose. Su consiglio delle banche provvedo a liberarmi del peso dei miei soci, liquidandoli e acquisendo il 100% della società per più o meno 150.000 euro. Naturalmente entro anch'io, ci scrive Claudio Carlot in tensione. Il colpo di grazia arriva nel giro di pochi mesi. Man mano che arrivano le date destinate ai rinnovi degli affidamenti, le 5 banche con cui lavoravo, nessuna esclusa, iniziano a chiedermi di portare garanzie concrete a fronte degli affidamenti già assegnatimi. Siccome non c'erano più i miei ex soci con le loro garanzie, del tutto inutili, erano in stato fallimentare, dovevo provvedere io alle garanzie reali per circa 500.000 euro. A quel punto l'unica cosa che mi restava era la casa di proprietà in cui abito, del valore di circa 300.000 euro. Preso dal panico, faccio un'ipoteca su casa per la liquidità necessaria a continuare con la mia impresa. Questo chiaramente accontenta una banca su 5, le altre iniziano lo stillicidio, chiedendomi a ripetizione il rientro da parte degli affidamenti, sempre di più, e non concedendomi più alcun credito, se non dietro presentazioni di ulteriore garanzie, affirma a questo punto di familiari, amici, parenti. Per un'azienda commerciale che da sempre si era appoggiata al credito concesso dalle banche, la cosa è stata via via sempre più deleteria. Oggi mi ritrovo ad aver dovuto pian piano licenziare 5 dipendenti su 6, ad avere la casa ipotecata, il giro d'affari ridotto a un quarto rispetto a quando potevo contare sul credito bancario, utili del tutto inadeguati a pagare i vari rientri da mutui e affidamenti, e quindi direttori che telefonano insistentemente per coprire scoperti di conto anche di decine di euro, magari per un giorno solo. Sono in ginocchio. Ammetto di aver sicuramente sbagliato qualche valutazione, però fondamentalmente questa stretta sul credito mi ha davvero messo in enormi difficoltà, al punto che ho messo la ditta in liquidazione. Ma temo di riuscire a farcela comunque, anche perché non appena ho comunicato la mia intenzione di liquidare l'azienda, mi hanno imposto il rientro totale dai fidi. Mi hanno ritirato i blocchetti degli assegni, le carte di credito e di fatto bloccato qualunque residua operatività aziendale. Lavoro a questo punto come ditta individuale, faccio consulenza e vendita a livello locale, ma tutto quello che riesco a guadagnare mi viene sistematicamente sottratto per appianare gli scoperti della SRL. Non riesco più ad avere un qualunque momento di serenità in famiglia. Mia moglie, ho 2 figli adolescenti, ha capito la situazione, ma anche lei è al crollo psicologico di fronte al rischio per niente remoto di perdere tutto. Più e più volte, lo riconosco, ho pensato anch'io di farla finita, anche perché avendo un'assicurazione sulla vita, se incidentalmente finisco sotto un camion, almeno mia moglie avrebbe i soldi per ripianare i debiti. Per fortuna, fino ad oggi non ne ho avuto il coraggio, ma non so se in futuro la disperazione e la depressione possano spingermi a fare tanto. Claudio, io questa volta ho detto il tuo nome perché ho letto e riletto la lettera, sono convinto che non lo farai. Purtroppo la tua situazione è quella di tanti. Purtroppo questa incapacità di avere uno strumento di ultima istanza che sappia analizzare quando è meglio sospendere l'automaticità dei rientri e quando è meglio sospendere l'automaticità delle richieste di pagamenti dallo Stato per le entrate piuttosto che chiudere l'impresa, questo è il difetto fondamentale di fronte al quale non riusciamo a venirne a capo, e la politica e l'amministrazione pubblica non riesce a capire che è questo ciò di cui oggi ci sarebbe bisogno. Non è una discrezionalità per amici degli amici, e che quando si arriva a una mancata tenuta di massa di un sistema d'impresa per banche in torsione, per ragioni loro sistemiche, e stato rapinatore, ecco, di fronte a questo la somma delle due cose e del fatto che tutti siamo diventati cattivi pagatori, questo è il terzo fenomeno, porta a una strage. E questa volta, per la prima volta da tantissimi decenni, il rischio è l'interruzione di continuità di una parte fondamentale del cuore che batteva da sempre della piccola impresa italiana. Questo è il primo problema del paese, questo, non i prefetti e i magistrati, capite, che si preoccupano di portare a casa i loro denari. Ho scelto apposta i prefetti e i magistrati perché sono due categorie che ovviamente, a chi rispetta lo Stato come a me, che sono nato in una cultura legalitaria, rappresentano lo Stato nella versione più alta. Ma io non mi illudo più, non è il problema dei dipendenti pubblici di bassa qualifica, è l'alta dirigenza pubblica che è diventata depositaria della scrittura dei provvedimenti e della loro interpretazione autoreferenziale dei sì e dei no. Loro sono la testa della macchina parassitaria drogata di entrate. Eccoci tornati all'ascoltatore che mi ha mandato un sms sul 2386666, che il direttore di banca l'aveva appena chiamato non per uno scoperto di fido ma uno scoperto di conto di 670 euro. Lo rassicuro perché a me il mese scorso mi hanno chiamato per uno scoperto che era di 249 e che si doveva a flussi contabili, ho messo a posto altrimenti in poche ore, però questo vi dà l'idea di qual è oramai il livello di torsione, di sofferenza dei propri conti del sistema bancario. Questo, ripeto, le banche non lo fanno mica per cattiveria, le banche hanno un mucchio di gente dentro, troppa, costi fissi troppo elevati, redditività zero, e da sei mesi, siamo al sesto mese, calano i depositi. I depositi calano, quindi la situazione è questa, purtroppo, maledizione. Allora, uno degli aspetti, degli effetti di questi ultimi mesi sul calo di fiducia delle aspettative rispetto al ballo della tassa quotidiana e dell'incertezza, della depressione che questo ha portato ulteriormente, perché ciascuna di queste notizie porta la gente, rispetto al poco che c'è, a tenerlo ulteriormente nelle tasche. Questo ha cambiato ulteriormente la fiducia, per esempio, nei consumi. La testimonianza di un commerciante che si chiama Antonello Fraschetta: sono un piccolo commerciante che ogni giorno vive gli effetti di questo periodo di crisi sul suo lavoro, visto che la sua bla bla, ringraziamenti a Radio 24, a me questi li saltiamo, naturalmente. Il governo capisca però che in fretta, prima possibile, ci scrive Antonello, bisognerebbe mutare questa specie di spirale depressiva del clima in cui tutti noi viviamo. Che cosa voglio dire? Scrive Antonello. Scrive che i clienti che entrano nel mio negozio sono abituati, come tutte le famiglie normali, a programmare le loro spese in base ai soldi che si prevede entreranno nelle loro tasche e alle uscite che si possono aspettare, più o meno impreviste o prevedibili nel futuro prossimo. Ecco, questa vaghezza del non dire quanto si spenderà per l'IMU, come su tante altre cose che vengono annunciate, rimpastate, rimangiate e rimodificate, è uno dei danni più gravi, che si aggiunge al fatto che poi ci sono i disoccupati e le imprese che chiudono. Se si capisse qual è davvero la spesa aggiuntiva che lo Stato pretende alle famiglie, le famiglie si regolerebbero, ma da mesi a questa parte le famiglie hanno capito che le spese crescono, ma non riescono a capire di quanto, e quindi spendono ancora meno. Ecco, questa testimonianza, che è più lunga e si conclude con un appello, quantomeno se lo Stato non intende dimagrire, dia almeno certezza di quanto vuole ingrassare, che è una bella battuta di Antonio Fraschetta, dà l'idea di un ulteriore problema che questo quadro crea a tutti. Allora, un'altra lettera, questa è di Giorgio Menin. Giorgio Menin è un imprenditore di 45 anni, compra una storia della termoidraulica, e che ha dovuto chiudere un'azienda nel dicembre, lasciare a casa, oltre a la sua moglie, anche 6 collaboratori. E perché la lettera di Giorgio è interessante? Perché Giorgio dice: presentiamo domanda di concordato preventivo che non viene accettata da una banca e da un fornitore, e a questo punto decido di non presentare la domanda di fallimento contro il parere di tutti, decido di cambiare professionisti e cerco di recuperare il più possibile attraverso il recupero crediti. Mi accorgo solo a quel punto di quanto i professionisti che mi avevano seguito prima avessero commesso parecchi errori, e solo Quindi dopo capisco del perché tanta fretta nel voler presentare il fallimento. Tutto questo, dice Giorgio Manin, per dire che bisogna fermarsi prima di assumere una qualunque determinazione disastrosa per la propria vita come per la propria azienda, ricominciare un secondo da capo e cercare di capire in pochi giorni a mente fredda dove si è sbagliato, prima di ritenere davvero, perché a quel punto in molti casi davvero non c'è alternativa, che purtroppo si debba mettere la parola fine solo alla propria storia imprenditoriale, però non a quella di vita, solo alla continuità di quell'impresa. Giorgio Menin, lo ringrazio. Allora andiamo ai due all'ospite aggiuntivo che abbiamo, è Renato Mattioni, segretario generale della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Lo ringrazio, lo saluto, buongiorno Mattioni. Buongiorno a tutti voi. Allora volevo leggere prima di chiedere a Mattioni cosa stanno facendo a Monza e Brianza la Camera di Commercio, le parole pronunciate questo fine settimana dal presidente di Confindustria Veneto Andrea Tomat a margine di un'assemblea di soci di Veneto Banca. Ha detto Andrea Tomat: non mi iscrivo al partito dell'antipolitica, ma mi sono rotto i puntini. Parliamo sempre di tasse, ha aggiunto Tomat, ma quando è che cominciamo a parlare di tagli? Lo dico anche al Presidente della Repubblica, siamo stufi di chi spende male, non solo di chi evade. Chi ruba e chi spende male ha diritto di cittadinanza in questo paese? Ma per quale ragione? Qui c'è un rischio di desertificazione industriale, ha continuato Tomat, anche nel Nord-Est. L'agenzia che si occupa di nuove imprese in Carinzia, ha aggiunto Tomat, non ce la fa più ad evadere le domande di chi arriva dall'estero. E se non è la Carinzia, è il Ticino. Tutti quelli che se ne possono andare di fronte alle pretese dello Stato italiano se ne vanno. C'è gente che aspetta da mesi rimborsi IVA e c'è gente che avanza milioni. Al contrario, abbiamo solo verifiche fiscali, tasse pagate al minuto e guai se tardi di un solo secondo perché rischi la galera. Ma che Stato è questo? Se qualcuno ha una qualche idea buona per far tornare lo Stato tra noi, cioè tra coloro che applica a se stesso la stessa regola che pretende a noi e che paga i suoi debiti come vuole che noi paghiamo le tasse a lui, bene, la tiri fuori alla svelta, ha detto Tomat, perché se fossimo al pronto soccorso nel vedere un paziente come lo Stato italiano, la vera parola che dovete pronunciare il buon medico è: lo stiamo perdendo. Ecco, queste sono parole, così non dite che sono io da solo ad alzare la voce, del presidente di Confindustria Veneto Andrea Tomat. Allora Mattioni, che cosa avete pensato di mettere in piedi Monza Brianza? Come sta evolvendo la situazione? Il deterioramento è rapido purtroppo anche da voi, o siamo in una linea di continuità che semplicemente manifesta segni nel tempo di mancata tenuta progressiva? La situazione è difficile, è una realtà manifatturiera, però c'è elementi di tenuta, non altro, come dire, il successo del Salone del Mobile, che per gran parte, per una parte importante, è legato a una distretta di distintivi alla Brianza. Io volevo aggiungere, prima di dire due cose su quello che facciamo, che una delle preoccupazioni riguarda proprio le nuove imprese, perché lei sa che nascono più imprese di quelle che muoiono in un periodo di crisi. Purtroppo di queste 400.000 imprese nel nostro paese, almeno un terzo sono imprese, diciamo, figlie della crisi, ossia le piccole imprese diventano una specie di ammortizzatore sociale, disoccupati, cassa integrati, precari, ecco, aprono un'azienda. Noi abbiamo fatto ad esempio un'iniziativa che si chiama Start, abbiamo affiancato delle nuove imprese. La cosa che mi colpiva è che in un questionario che abbiamo distribuito, questi nuovi imprenditori desiderano di guadagnare soltanto 1.500 euro, quindi possiamo chiamarla generazione nuove imprese 1.500. Lì ci sono davvero dei problemi di tenuta, perché finito il piccolo capitale personale a disposizione, in questo momento fare una nuova impresa debole è molto difficile. Aggiungo le due iniziative. Noi abbiamo fatto un'iniziativa che finiva due anni fa, che si chiama Help Impresa, l'abbiamo fatto insieme alle banche di credito cooperativo, abbiamo sostenuto 200 imprese, micro imprese e piccole imprese in estrema difficoltà. Era uno sportello anche difficile, perché le persone che ci lavoravano si trovavano in situazioni molto difficili, così abbiamo dovuto affiancare uno psicologo e abbiamo utilizzato due leve. La prima leva è quella che abbiamo cercato di capire se l'impresa davvero si poteva tenere in piedi, se quindi potevamo immaginare una eutanasia dignitosa. La seconda invece abbiamo sostenuto quelle difficoltà che del patrimonio aziendale spesso arrivano direttamente fino ai soldi messi da parte per i figli o per le difficoltà. Quindi abbiamo dato con le banche di credito cooperativo un aiuto per circa 150 di queste, senza garanzie, sono stato un piccolo aiuto, in media 10.000 euro, ma subito e veloce. E la cosa che ci colpiva è che dopo un anno di questa attività, soltanto in un caso c'è stato un default. Quindi alla fine tutti sono rientrati. Incredibile. Aspetti che la interrompo perché siamo in ritardo sul minuto sulle informazioni sulle strade. E mentre tornano i Doors, voi avete anche un'iniziativa che questo è in cooperazione anche con l'altra Camera di Commercio, che serve a dare una mano a chi è in difficoltà proprio perché è lo Stato che non paga i suoi debiti commerciali alle imprese. Sì, è un'iniziativa che abbiamo fatto con il Camera di Commercio della Lombardia, che si chiama Sblocca Crediti. Nell'esperienza sostanzialmente abbiamo messo un fondo con Unicredit non fruttifero e di garanzia, abbiamo erogato soltanto in Brianza abbiamo aiutato 100 imprese che avevano difficoltà in un anno nei confronti della pubblica amministrazione. Praticamente Unicredit corrisponde il dovuto nei confronti, attraverso una convenzione con il comune, cioè con l'ANCI, l'Unione Regionale dei Camere di Commercio. Abbiamo messo un fondo presso Unicredit e Unicredit, l'imprenditore va da Unicredit, Unicredit dà i soldi che loro dovevano ottenere dai comuni. Questa è un'iniziativa molto interessante che funziona, perché noi è in crescita ormai, non è immensa, però insomma... No, però ecco, è un tentativo rispetto a chi ha ben altro potrebbe. Mi si chiede che cosa, Giannino, critichi, cosa dovrebbe fare lo Stato se non ha i soldi per pagare? Falso, lo Stato sia per mettere mano al processo di liquidazione in tempo reale, siamo in ritardo di 3 anni in media, dei crediti IVA, primo. Secondo, sia per garanzie finanziarie immediate al sistema bancario con un meccanismo prosoluto e non prosolvendo, in cui è responsabile lui di fronte alle banche dell'anticipo di sconto delle fatture che non onora l'amministrazione pubblica, non l'impresa come stanno tentando di fare ancora una volta buggerandoci con questo governo, può farlo attingendo per esempio le risorse di cassa, depositi e prestiti che non fanno deficit e debito pubblico. Ecco, per dire, quindi le proposte ci sono, non è vero che non si può fare e che lo Stato prende ma non paga, questo è il problema, perché è ladro nell'anima. E il giorno che qualcuno mi dice che sto violando il codice penale per questo, me ne farò un onore, non aspettando che qualche procuratore ritenga che abbia esagerato. Quindi grazie Renato Mattioni, io vi dico che per chi sta nelle sedi di Monza, Desio, Vimercate, in quei territori, quindi per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Monza, Brianza, il numero di telefono per eventuali informazioni e richieste di appuntamento per questa iniziativa di Lifeguard, punto di ascolto soccorso a cui rivolgersi, è 039 2807 446. Lo ripeto, 039 2807 446. Sentiamo Elisabetta da Roma. Elisabetta da Roma è in ascolto, prego. Buongiorno, io vorrei sapere da lei, dottor Giardino, come interpreta il silenzio del Presidente della Repubblica, onorevole Napolitano, su quello che sta succedendo a proposito dell'argomento che lei tratta. Perché ogni qualvolta è morto un operaio, e per carità nessuno gliene toglie il merito di questo, ha subito parlato in televisione, editti, eccetera. Invece di fronte a questo argomento non siamo arrivati ai 1200 della Grecia, però insomma è una cosa grave quella che sta succedendo, silenzio assoluto da parte sua. Elisabetta, non mi faccia mancare anche di rispetto alla più alta istituzione dell'Unità della Repubblica, la penso come lei, una parola del Capo dello Stato sarebbe opportuna e necessaria, e lo dico perché non distingo più lavoro dipendente da tenuta dell'impresa, l'interesse è convergente. Il problema è che dire qualcosa in merito significherebbe uno schiaffo alla politica e al governo. Questa è la mia vera risposta, e questo schiaffo il Capo dello Stato esita a darlo. È un peccato, sarebbe uno schiaffo meritato. Rosalba da Prato, prego Rosalba. Buongiorno, io sono un'imprenditrice di Prato che sto lavorando, non ho più orari, non ho più niente, solo per salvare la mia piccola azienda. Stamani mattina mi sono alzata e a TG1